in primo piano. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. In studio per questa settimana Daniele Bellasio, in regia grazie a Carmelo Lauricella. Allora, questa settimana si apre con una grande tentazione e alla tentazione non ha saputo resistere il quotidiano nazionale Il Giorno, ovvero quello di dire che Italia-Francia 2-0. Quali sono i due gol segnati in questo weekend secondo quello che si può vedere sulla stampa italiana e soprattutto sulla prima pagina del Giorno? Allora, la Concordia è arrivata a Genova nel migliore dei modi e soprattutto Vincenzo Nibali è arrivato a Parigi in maglia gialla. Quindi 2-0 con la Francia, Il Giorno li mette vicini in prima pagina, una foto di un rimorchiatore a Genova mentre entra la Costa Concordia e una foto simpatica di un Nibali che si mordicchia la lingua sulla prima pagina, titolo "Capaci di tutto". Le due foto sono affiancate, la spiegazione è molto chiara: due vittorie italiane in un solo giorno, la Concordia a Genova e il Tour de France a Nibali. C'è anche l'editoriale, ci torniamo dopo. Cari cugini, rassegnatevi, appunto 2-0 con la Francia. Ma si può davvero festeggiare? Ma sicuramente si può festeggiare per Nibali, tanto è vero che la Gazzetta dello Sport, così facciamo anche un po', diciamo, di una rassegna delle prime pagine, la Gazzetta dello Sport sulla sua prima pagina oggi non è solo rosa, anzi è soprattutto gialla, ovviamente. Roi Nibali, con tanto di accento, foto stupenda di Nibali che questa volta si mordicchia un labbro, ma molto molto simpatica, con fiori, leone. È gialla la Gazzetta dello Sport, lo spiega nell'editoriale Andrea Monti, il direttore, un uomo autentico in cima al mondo. Questo è il titolo dell'editoriale, un po' di curiosità e appunto gialla per festeggiare. Nibali si può certamente festeggiare, anche Genova può festeggiare. Perché appunto l'approdo della Costa Concordia è stato, come dire, è andato a buon fine nel migliore dei modi. E infatti il quotidiano della città, il Secolo XIX, "Il buon vento di Genova, la Concordia in porto, Renzi, non è una festa ma un nuovo inizio". E bacchetta Hollande, torna alla Francia e torna la domanda: si può effettivamente festeggiare? Il Secolo XIX festeggia Genova che ha saputo portare in porto questa iniziativa nel migliore dei modi. Però, Repubblica, che apre sulla politica, sulle riforme, si tratta su immunità e referendum, contiene invece un articolo di Francesco Merlo, "La vergogna rottamata", dove dice: siamo veramente capaci di tutto se riusciamo a trasformare una vergogna nazionale in una passerella. Ci torniamo. Su Repubblica c'è anche un'intervista a uno dei protagonisti della vicenda della Costa Concordia, il sudafricano Nick Sloan. Ci torniamo dopo Repubblica, la prima pagina della Stampa. La Stampa fa una scelta più legata alla politica estera e dà invece una notizia che abbiamo trovato solo qui, di politica interna. Taglio alto, schiaffo di Israele, no al piano USA, Obama, Gaza, tregua e disarmo. Questa è la richiesta del Presidente degli Stati Uniti. La notizia che vi dicevo di politica, che contiene la Stampa in prima pagina: svolta di Renzi, accelerazione sulle unioni civili, e subito dopo la riforma del lavoro. Si porta avanti la Stampa spiegando quali saranno le priorità del governo all'inizio dell'autunno a settembre. Scelta sulle riforme anche per l'Unità, il giornale del Partito Democratico fondato da Antonio Gramsci. Il titolo è "Riforme, trattativa armata", però il taglio invece medio della prima pagina è sulla politica estera. Gaza, la mini tregua è un'illusione. Molto bello il commento di Rocco Cangelosi, che ricorda, oltre alla crisi di Gaza, l'altra grande polveriera di queste ore, ovvero la Libia. La Libia ormai è una polveriera, il titolo, e mette assieme diverse crisi internazionali di questo inizio estate. Il Corriere della Sera ha un titolo di apertura diverso dagli altri giornali: l'ingorgo estivo delle tasse, sono 20 milioni i contribuenti coinvolti, 410 gli adempimenti. Diversa anche la scelta per quanto riguarda l'editoriale principale, che è firmato da Ernesto Galli della Loggia ed è sintetizzato intitola L'indifferenza che uccide, il silenzio sui cristiani perseguitati nel mondo. Questa è la scelta del Corriere, che poi in prima pagina ha ovviamente anche il riassunto di ciò che sta accadendo sul fronte politico, con un articolo di Maria Teresa Meli, Riforme, segnali da Sel, il Premier vede i leader. Scelta sulla politica anche per il quotidiano romano Il Messaggero, che in prima pagina mette la notizia del nuovo vertice Renzi e Berlusconi. In settimana l'incontro tra il Premier e il leader di Forza Italia per confermare il patto sulle riforme. Tra l'altro, sui giornali di oggi scopriamo che, grazie a un giornalista prestato alla politica in questa fase, che questo patto proprio esiste, è proprio scritto, lo dice Toti, è sulla prima pagina del Messaggero. Toti, l'intesa esiste, c'è un documento, niente patti segreti, c'è proprio un documento. Ma questo documento, chi l'ha scritto? Qui è difficile, perché resta l'interrogativo. Spiega Toti che è un appunto di lavoro sulle cose da fare. Però la calligrafia, dice Toti, non è di Silvio Berlusconi. Dice sempre Toti che non è nemmeno di Renzi, forse è di Denis Verdini, il plenipotenziario nelle trattative politiche del cavaliere o ex cavaliere, che dir si voglia. Attenzione però, Renzi, e questa è l'apertura del giornale, curioso che venga da diciamo appunto da un giornale più vicino all'altra parte politica, all'altro mondo politico. Il titolo è Cambia il vento, tutti i guai di Renzi. Lo spiega Vittorio Feltri, che avvisa il giovane Premier, attenzione che rischi di fare la fine di Monti, prima tutti ti elogiano e poi tutti ti scaricano. L'edizione del lunedì del Fatto Quotidiano, l'hamburger ci divorerà. Sappiamo che il lunedì il Fatto Quotidiano ha una veste diversa, con più simile a un settimanale, un po' meno di attualità. Dunque, torniamo all'inizio. Dicevamo 2-0 alla Francia. L'editoriale che, riassume meglio questa tentazione che avremmo voluto tenere dentro, forse perché questo nazionalismo così legato a fatti così diversi può avere anche dei risvolti controversi, però invece il giorno ha deciso di non tenerla dentro, di farla diventare una scelta giornalistica, sicuramente ha degli aspetti anche divertenti, e lo spiega bene il commento di Marco Buticchi sulla prima pagina. Lo leggiamo perché tanto è breve. Cari cugini, rassegnatevi. Cari cugini d'Oltralpe, vi scrivo così, ve ne parlo un po'. Vi parlo anzitutto della stima e dell'amore che ho sempre nutrito per la vostra terra, per le vostre tradizioni, per la vostra storia, e si tratta di ammirazione genuina, scevra di ogni critica alla grandeur, che vi porta spesso ai sorrisini ammiccanti conditi al classico les italiens. Come se noi fossimo le capre d'Europa, invece che i pronipoti della civiltà che ha scritto passato, presente e futuro dell'umanità intera. Eppure qualche dubbio sulla solidità del vostro castello mi è venuto quando ho letto la notizia che avete costruito i treni non compatibili con le stazioni. A memoria del sottoscritto, dallo scandalo delle banane in poi, raramente abbiamo compiuto castronerie di tal misura, neppure se unti dalla mamma di tutte le tangenti. Poi ho scoperto che anche dalle vostre parti finiscono gli arresti pezzi grossi, quegli stessi che nell'arco di mezz'ora hanno deciso di bombardare Libia e libici. Ma invece di denigrare la Francia, mi son detto che tutto il mondo è paese, quando comanda il dio denaro. Eppure la Libia oggi ribolle senza ordine e governo e rappresenta una mina innescata nel mezzo del Mediterraneo. Continua poi a pagina 2 il commento di Marco Buticchi. Proprio sul Mare Nostrum rimango. Nella drammatica vicenda della Costa Concordia non avete fatto certo una bella figura. Si riferisce al fatto che da parte del ministro all'ambiente Ségolène Royal erano venuti più dubbi sulla capacità italiana di portare a buon fine il recupero della costa. Noi dobbiamo espiare l'onta del naufragio, d'accordo, ma voi avete fatto seguire un fantasma di ferraglia da una nave militare per paura che dal relitto, dopo 3 anni d'affondamento, fuoriuscisse chissà quale minaccia per l'ecosistema. Così per fortuna non è stato, ma fosse accaduto, come avreste rimediato? Con una bella salva di cannone su un rottame? Insomma, non è più tempo di mostrare i muscoli e ritenersi superiori. superiori. Sono convinto che solo aiutandoci a vicenda porteremo l'Europa fuori dal vortice in cui tutti, ma proprio tutti, siamo finiti. Concedetemi un ultimo inciso, cugini cari. Un nostro cantautore, questa è la citazione più nota di questi giorni, va detta forse anche un po' troppo. Diceva Marco Butticchi, concedetemi un ultimo inciso, cugini cari. Un nostro cantautore riassume così un fattaccio tutto giallo tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. Canta Paolo Conte raccontando le imprese di Gino Bartali. Qui in Italia i giornali svolazzeranno per giorni sulla notizia, ma sotto l'arco di trionfo, col tricolore italiano che sventola vittorioso sul Tour de France, credo che ci sia più d'uno tra di voi a ribollire di rabbia. Ah, les Italiens! Ho un po' di, come posso dire, amor patrio, mettendo assieme anche cose che forse assieme non dovrebbero stare. Dicevamo che la Gazzetta ovviamente fa bene a festeggiare la vittoria di Rouhani Bali, prima pagina, editoriale di Andrea Monti, un uomo autentico in cima al mondo, un italiano in bicicletta vola sui Campi Elisi, il paradiso degli eroi cari agli dèi. L'immagine del suo trionfo su una Gazzetta eccezionalmente vestita di giallo ferma un'emozione che rapisce il cuore, un momento indimenticabile per il nostro sport e per tutto il paese. Un siciliano a Parigi sullo sfondo del gigantesco arco di pietra voluto due secoli fa da un altro isolano, Napoleone Bonaparte, per celebrare le vittorie che fanno la storia. Eh sì, un altro isolano, appunto, tra la Corsica e la Sardegna, ha fatto il suo viaggio, la Costa Concordia. Dicevamo, se si può festeggiare per Nibali, lo si può fare per la Costa Concordia? Per l'ultima operazione sì, anche se però Renzi ieri a Genova ha ricordato che comunque non è una festa, è un nuovo inizio, è andato bene il ritorno della nave, ma bisogna ricordare i 33 morti, le 33 vittime. Renzi, lo ricorda il secolo XIX nel suo articolo, ha dato una stoccatina a Hollande dicendo, l'articolo a pagina 4, Renzi 2 punti, Hollande, vedi come lavora l'Italia, e quindi fa sapere che lo chiamerà e gli racconterà, c'è un po' di malizia in questo annuncio di telefonata, per dire ce l'abbiamo fatta. Sì, c'è la festa, ma ci sono anche le polemiche, perché comunque il capo della Protezione Civile Gabrielli dice, ora chi mi insultava spieghi perché, perseguivano interessi di parte, dice Gabrielli, i veri portatori di interessi di parte sono proprio loro, chi mi ha chiamato servo dei padroni ora spieghi perché, il capo della Protezione Civile contro una parte del PD toscano, uomo di Stato il futuro non mi spaventa, sono a disposizione delle decisioni che verranno prese, si riferisce alle polemiche che ci sono state, a dove doveva andare la costa, ai tempi che sono stati necessari per recuperare la Costa Concordia. Dal secolo XIX passiamo a Repubblica, perché appunto a ricordarci che c'è poco da festeggiare c'è un articolo caustico per certi versi di Francesco Merlo sulla prima pagina che si riferisce proprio alla costa. La vergogna rottamata. Non si era mai vista, inizia così l'articolo di Francesco Merlo, una vergogna trasformata in fierezza nazionale. La carcassa del comando marinaro italiano è stata esibita come una bandiera e il colore della ruggine e i residui d'olio esausto erano spacciati per polvere di stelle. Durissimo. Francesco Merlo, adesso ritroviamo come prosegue nelle pagine interne a pagina 23, dice Francesco Merlo, diciamo la verità, non c'è italiano per bene che ieri non abbia sofferto nel vedere che nel porto della superba Genova lo stupido fallimento di un popolo di navigatori veniva esibito come un moderno rinascimento. Mai eravamo arrivati a celebrare come vita nuova la mummia della gloriosa industria italiana delle grandi navi autoaffondate in una pozza a pochi metri dalla riva dell'isola del Giglio ed ora imbavagliate e tenute in equilibrio da cassoni, stampelle e incatenata come una bestia in cattività e a dei cavi guinzaglio. Magari si potessero cancellare i 32 morti e davvero smaltire la vergogna, cannibalizzarla e risputarla sotto forma di orgoglio nazionale. Questo è l'editoriale di Francesco Merlo che ci ricorda che festeggiare forse non è proprio il caso. Anche se appunto va detto e va raccontato che questo salvataggio, questo della nave, questo riportare la nave è stata comunque un'operazione anche delle nostre aziende, del nostro personale, insomma della Capitaneria di Porto di Genova. È andato tutto bene, anche se mette in qualche modo fine a un capitolo triste della nostra storia. Uno dei protagonisti di questo capitolo è stato Nick Sloan, sudafricano, è stato raccontato molto dai giornali in questo periodo. C'è un'intervista all'uomo che è stato un po' il caposquadra di questo grande recupero a pagina 3 di Repubblica. Il personaggio, il responsabile del recupero, è Capitan Nick Saluta. Adesso posso dirlo, al Giglio ho temuto che si capovolgesse la nave. L'intervista racconta, dicono di lei, Nick Sloan è sempre calmo, paziente, sorridente. Verità o un po' leggenda? Mi hanno insegnato, e ora so per esperienza, che alla tua squadra devi comunicare calma. Se qualcosa non va, prima trovi una soluzione, subito dopo tornerà la quiete. All'inizio abbiamo dovuto superare grosse difficoltà tecniche, il morale era molto basso, racconta Nick Sloan, e soprattutto racconta che nei periodi invernali, quando tempeste, piogge, precipitavano sulla costa al Giglio, ha temuto che la nave anche precipitasse. Dice poi Sloan, farò le vacanze a casa mia in Sudafrica e magari un giorno tornerò in Italia da turista, ma non al mare. Un altro dei momenti di polemica maggiore in questi giorni, un altro caso nazionale che c'entra un po' con lo sport, ne abbiamo parlato nel primo blocco, ma tutto sommato c'entra anche con altri temi, è quello del candidato alla presidenza della FIGC, Carlo Tavecchio. Dopo le frasi sugli immigrati, il riferimento al mangiare banane dei giorni scorsi, ovviamente il caso è nato, i social network sono stati scatenati, polemiche. È il candidato del maggior numero di squadre, quasi tutte le squadre della Serie A, della Lega B, della Lega di dilettanti del quale è della quale è anche presidente. Però il caso sta diventando politico. Il PD ha chiesto che faccia un passo indietro per bocca del vice segretario Deborah Serracchiani, è stato invece difeso in parte da altri esponenti invece di Forza Italia, Carlo Tavecchio. Sulla prima pagina di Repubblica la notizia, con questa evidenza forse soltanto su Repubblica e in parte anche sulla Stampa, se non vado errato, però sulla Stampa è all'interno la notizia. La Fiorentina scarica Tavecchio. Noi abbiamo altri valori etici. Dopo le frasi razzisti si incrina l'asse a suo favore. L'editoriale altrettanto duro di Repubblica è di Michele Serra, il commento, e dice addirittura, il titolo è un daspo per il candidato. La conclusione dell'articolo di commento di Michele Serra è questo per Tavecchio. Spiega appunto, racconta un mondo un po' chiuso in se stesso, un mondo di personaggi della politica o del mondo tra la politica e l'economia che si considerano un po', come posso dire, i padroni di casa loro, li definisce Serra, e al fondo dell'articolo dice, ed è per questa ragione del resto che i candidati più giovani e più autonomi, per esempio, e qui si riferisce al giovane, l'ex calciatore Albertini o l'ex calciatore Rivera, che è un po' meno giovane diciamo così, però sicuramente dal punto di vista sportivo più autonomo, il cui nome circola da molti anni, si riferisce Rivera nella certezza dell'ineleggibilità per eccesso di prestigio e di indipendenza di giudizio, per queste ragioni, per il fatto che questi esponenti in questo mondo politico-culturale si sentono un po' padroni a casa loro, non hanno avuto da parte dei presidenti più influenti lo stesso favore riscosso da Tavecchio. Un mondo chiuso, dice Serra, malato e chiuso, un piccolo aiuto dall'esterno sarebbe indispensabile, se non un daspo, magari un richiamo ufficiale dell'UEFA, magistratura ed Europa. Del resto sono da anni i tutori, non si sa quanto felici di esserlo, del potere italiano. Mette, come posso dire, un po' all'indice alcuni atteggiamenti italiani Serra, e lo fa riferendosi al caso politico sorto attorno alla candidatura di Carlo Tavecchio alla presidenza della FIGC. Vedremo come le polemiche andranno avanti, vedremo come la politica affronterà questa fase. Politica e politica estera, la Stampa le mette ravvicinate. Per quanto riguarda la politica estera, ovviamente è Gaza al centro dell'attenzione. Su Repubblica c'è un bellissimo come possiamo definirlo, racconto editoriale di David Grossman, dello scrittore, Ricordare il futuro. Nelle prime 10 righe iniziali di Grossman c'è praticamente tutta l'attuale situazione. La situazione in cui sono intrappolati israeliani e palestinesi assomiglia sempre di più a una bolla ermetica sigillata. In questa bolla, con gli anni, entrambe le parti hanno messo a punto giustificazioni convincenti e raffinate per qualunque azione da essa intrapresa. Israele può dire, a ragione, che nessun paese al mondo rimarrebbe immobile di fronte agli incessanti attacchi di Hamas o alla minaccia dei tunnel sotterranei. E Hamas, dal canto suo, giustifica gli attacchi contro lo Stato ebraico sostenendo che il suo popolo è ancora sotto occupazione e che i cittadini della striscia di Gaza languono a causa del blocco imposto da Israele. In 10 righe uno scrittore sintetizza perfettamente quello che è anche uno stallo diplomatico. Schiaffo di Israele è il titolo della stampa. No al piano USA. Obama ha telefonato anche a Netanyahu per fare pressioni a Gaza, tregua e disarmo. Netanyahu risponde: gli americani non parlano della nostra sicurezza. Per la prima volta sembra anche in qualche modo incrinarsi quello che è sempre stata l'intesa solida tra Stati Uniti e Israele, almeno da un punto di vista diplomatico. Pagina 3 della stampa, articolo del corrispondente Maurizio Molinari. Netanyahu, virgola, schiaffo, ritorna a Kerry, proposta inaccettabile, tensione con gli USA, poi Obama precisa, serve il disarmo a Gaza e chiede una tregua immediata e incondizionata. Troppe vittime. Ovviamente il richiamo forte ieri è venuto anche dall'Angelus, dal Papa Francesco, che ha detto: il mio pensiero va a tre aree di crisi, quella medio orientale, quella irachena e quella ucraina. Tutto si perde con la guerra, nulla si perde con la pace, mai più la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza, il futuro. Vi prego, dice il Papa, fermatevi, ve lo chiedo con tutto il cuore. Tra l'altro, fermatevi, chi ha visto i telegiornali di ieri lo sa, è un concetto che ha ribadito più volte. Anche l'Unità in prima pagina. Gaza, la mini tregua è un'illusione. Pesante offensiva militare israeliana nel sud della striscia. Anche Hamas non si ferma. Appello del Papa contro le guerre. L'editoriale, però, a fianco di Rocco Cangelosi, è molto utile perché unisce anche l'altra grave crisi del momento, quella libica. La Libia ormai è una polveriera, è il titolo. La guerra in corso nella striscia di Gaza e l'abbattimento del velivolo malesiano sui cieli dell'Ucraina hanno lasciato nell'ombra un altro dramma che si sta svolgendo alle porte di casa nostra. Si tratta della Libia. Sappiamo che gli americani hanno evacuato la propria ambasciata da Tripoli, hanno detto ai propri cittadini di non recarsi nel paese. Nel commento, Libia fuori controllo, ormai una polveriera, spiega Rocco Cangelosi, il governo centrale non mantiene il controllo neppure della capitale Tripoli. Gruppi salafisti e jihadisti sono in ascesa nell'est del paese. La regione di Barca, il nome arabo della Cirenaica, ai quali si aggiungono i guerriglieri libici di ritorno dalla Siria e dall'Iraq che si erano uniti ai gruppi estremisti più radicali, si aggiungono ai gruppi di salafisti e jihadisti, dice al termine del suo articolo Rocco Cangelosi. Tuttavia, soltanto un intervento di peace enforcing sotto l'egida dell'ONU potrebbe avere possibilità di successo. Non sembra tuttavia, visti i precedenti della Siria, dell'Ucraina e recentemente della striscia di Gaza, che il palazzo di vetro sia in grado di mettere a punto una strategia credibile per condurre le fazioni in lotta alla ripresa del dialogo di riconciliazione nazionale. Quindi la situazione internazionale diventa sempre più complicata, con tre grosse crisi ben riassunte e messe assieme da Rocco Cangelosi sull'Unità: Ucraina, Medio Oriente, Libia. E ricordiamo tra l'altro che l'Europa in questa fase non ha nemmeno la pienezza delle proprie istituzioni, perché sì, ha un Lady Pesk, però è a fine mandato, la commissione deve essere fatta, si discute di nomine, però si discute, le prese di posizioni sono lente ad arrivare e intanto si parla di nomine, ma anche le nomine sono lente ad arrivare. L'Europa lenta, diciamo, in questi giorni. La stampa, dicevamo, apre sulla politica estera, però poi contiene l'inizio di settembre, si parla già di settembre per la politica italiana, anche se questa dovrebbe essere, come dice Alessandro Milan, che salutiamo, Proprio in queste, nella stessa fascia della rassegna stampa di Radio 24, questa dovrebbe essere la settimana decisiva per le riforme, però la stampa si porta avanti intanto e parla di settembre, la svolta di Renzi, accelerazioni sulle unioni civili e subito dopo la riforma del lavoro. In autunno il governo rilancerà il modello tedesco, unioni civili prima di tutto. Matteo Renzi pensa già al dopo riforme istituzionali, al dopo, ma peraltro sulle riforme siamo ancora alla trattativa. In autunno proverà ad accelerare, ci sarà una proposta di legge ad hoc del governo sul modello tedesco che prevede gli stessi diritti dei coniugi ma non consente le adozioni. In cantiere anche la riforma del lavoro. Il premier, le regole vanno riscritte totalmente. Ma prima di arrivare però ai, come dire, agli annunci di ciò che accadrà a settembre, bisogna scavallare questo agosto e scavallarlo con le riforme. Il ministro Boschi ha detto che eventualmente si faranno meno ferie, si andrà avanti. Sì, ma come? Ecco, torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Articolo di Maria Teresa Meli, Senato e ostruzionismo. Riforme, segnali da Sel. Il premier vede i leader. Matteo Renzi sa che tra oggi e domani potrebbe esserci la svolta, in un senso o nell'altro. Ieri una dichiarazione di Nicola Fratoianni che lascia intendere la disponibilità di Sella al confronto è apparsa come una prima cauta apertura, però ancora troppo timida. Nel frattempo il premier si prepara all'incontro con Silvio Berlusconi che si terrà tra domani e giovedì prossimo per fare il punto sul patto del Nazareno. Quello che appunto abbiamo visto, sappiamo da, ce l'ha raccontato Giovanni Toti, è un patto scritto, non sappiamo da chi, però è scritto. E soprattutto, continua l'articolo, per esaminare le modifiche all'Italicum. Sembra di capire quindi che la trattativa sulle riforme istituzionali mette assieme l'Italicum e il Senato sempre di più. Dicevamo però che questa trattativa parte da un'alleanza stretta tempo fa tra Forza Italia e il PD guidato da Renzi. A pagina 6 del Corriere della Sera si spiega perché. Lo fa Tommaso Labate in una sorta di retroscena che contiene dichiarazioni pubbliche retroscena. Allora, Toti e il giallo, giallo già, perché da tempo si cercava di capire se questo patto era scritto o no, il giallo del patto del Nazareno, come se fosse scritto, non si capisce. Se è scritto è più grave oppure è meno grave? Questa è la domanda. Toti e il giallo del patto del Nazareno, è un foglio di carta e io l'ho visto, i contenuti dell'accordo tra Berlusconi e Renzi, civati, allora pubblicatelo. Se è scritto dobbiamo conoscerlo tutto, però spiega Toti, senza firma, una sola paginetta, nessuna firma in calce, la grafia non ben identificata. Il sospetto, Brunetta, col tempo è subentrata una seconda versione a noi sfavorevole, non tanto di un patto scritto, dice Brunetta, quanto di una riforma dell'Italicum. Appunto, Italicum e Senato sempre più intrecciati. Il governo sembra aprire sul fronte della trattativa sulla nuova legge elettorale, a patto però che l'ostruzionismo al Senato sulla riforma del Senato diminuisca in Parlamento. Sul fronte invece dell'economia, sempre da parte del governo, c'è una novità che il Corriere mette a pagina 4 in un articolo non firmato. Task force di economisti per il premier, scelti i nomi. A quanto pare Matteo Renzi non ha proprio intenzione di andare alle elezioni anticipate, perché un altro dei rumors di queste ore era che invece tutto sommato al segretario del PD convenisse andare al voto, come gli chiede per esempio un suo fedele parlamentare Roberto Giachetti. Quasi a smentire questa ipotesi, quella delle elezioni anticipate, tra oggi e domani verranno resi noti i nomi dei componenti del team che affiancherà a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio e il suo spin doctor Filippo Sensi. Nella squadra vi saranno parecchi giovani e ci sarà un gruppo di economisti molto apprezzati da Renzi, già perché il prossimo fronte su cui il premier dovrà incentrare tutti i suoi sforzi è proprio quello dell'economia. Ecco alcuni nomi del nuovo team. Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, molto noto ai lettori del Sole 24 Ore ovviamente, Tommaso Nannicini, giovane economista, abitué della Leopolda, figlio di un ex deputato d'Alemiano del Partito Democratico, Veronica De Romanis, economista, moglie di Lorenzo Binismaghi, Veronica De Romanis che ha scritto un bellissimo libro sulla Germania e sul modello tedesco per l'economia, e poi Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison, esperto di economia economia industriale, anche lui molto noto per i lettori del Sole 24 Ore. Il Presidente del Consiglio ha preferito scegliere i suoi esperti lontano dai palazzi della politica e della burocrazia, ma soprattutto ha bisogno dell'aiuto di personalità di cui si fida per affrontare i nodi dell'economia italiana. È da più di un mese che Renzi lavorava a questo progetto, come del resto sta lavorando al capitolo bilancio dello Stato. Ed è qui che vengono le spine più grosse per il governo, perché, come sappiamo, aleggia l'ipotesi, per qualcuno, per tanti, la minaccia di una manovra finora smentita dal governo. Vittorio Feltri, sulla prima pagina del Giornale, con la capacità di sintesi e di chiarezza che gli è propria, dice che per Renzi il vento sta già cambiando. È bastato poco, ma il vento sta già cambiando. Il titolo del Giornale, infatti, cambia il vento, tutti i guai di Renzi. Tra l'altro è curioso, diceva all'inizio, che sembra quasi preoccuparsene di più un giornale di questo possibile cambio di vento, un giornale che non dovrebbe essere così vicino al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in quanto vicino come linea editoriale di più al centrodestra. Invece è proprio il Giornale ad avvisare Renzi. Santo cielo, dice Vittorio Feltri, è già cominciata la demolizione del mito. Il riferimento è chiaro. Matteo Renzi sta subendo i primi colpi di Piccone. Povero ragazzo, così carino e così maleducato, è già costretto a difendersi. Per lui sarà una lotta dura. Quando i media danno inizio agli attacchi, vuol dire che gli editori, e non solo gli editorialisti, sono scontenti e hanno perso la fiducia. Ne sa qualcosa Mario Monti, che, come il fenomeno toscano, fu accolto dalla banda Palazzo Chigi, racconta sempre Feltri. Ecco l'uomo nuovo, non proprio della provvidenza, ma quasi. Ecco il professore che cambierà i destini della sonnacchiosa Italia, vessata per anni da incapaci a tutto e buoni a nulla. E giù elogi, incoraggiamenti, lodi, per non parlare di loden, sperticati. Impossibile dimenticare la prosa incantata di tanti pennini intinti nella saliva, il bocconiano di qua, il bocconiano di là. Finalmente un'autorità alla guida del governo che aggiusterà i bilanci in disordine. Egli prometteva addirittura la spending review e intendeva raddrizzare le gambe al signor Spread, che nessuno sapeva chi fosse, ma seminava il terrore andando in altalena. La mattina a quei tempi, racconta Feltri, non lontani peraltro quei tempi, i cittadini si alzavano sorseggiando il caffè, davano un'occhiata su internet, se lo spread calava di un punto, data l'ora, non stappavano bottiglie di champagne, ma esultavano alla maniera dei tifosi di calcio davanti a un gol la nazionale. Continua con il parallelo con Monti, che devo dire, insomma, forse preoccuperà un po' dalle parti di Palazzo Chigi. E poi arriva alla volta di Renzi e dice che bel ragazzo, quanto è simpatico, un grande comunicatore, svelto, deciso, abile a intortare l'uditorio. Lo volevano fare santo subito, come un papa qualunque. Si riferisce sempre, diciamo così, al comune denominatore della stampa nazionale. Era febbraio, siamo alla fine di luglio e il signorino ha già rotto l'anima a parecchia gente. I segnali si avvertono nel palazzo, nei dintorni e in periferia, continua Feltri. L'ex sindaco di Firenze sarà mica un blu. La domanda è sempre più pressante, la risposta sempre più netta: non ce la fa, non ce la può fare. Ma a che cosa si riferisce esattamente Feltri? Prende spunto tutto sommato da quello che può essere un dettaglio, sebbene importante. Caro Renzi, è la chiusa dell'articolo di Vittorio Feltri. Caro Renzi, sa perché glielo dico? Che sta un po' nei guai? Ieri ho letto il fondo del Corriere della Sera, scritto da Antonio Polito, in cui si afferma che lei non ha compreso un tubo. Se certe cose le dice il Corriere, significa che lassù, in alto, i padroni hanno il pollice verso. Si riguardi. E con questo augurio di Vittorio Feltri a Matteo Renzi, augurio che contiene ovviamente un po' di veleno, passiamo invece a notizie che vengono dall'America, per poi parlare di cose che riguardano più casa nostra. Allora, dall'America, pagina 11 del Corriere della Sera, articolo di Massimo Gaggi, svolta del New York Times, però è una svolta importante di linea editoriale. Marijuana libera per tutti, la svolta del New York Times. Anche il 54% degli americani a favore della legalizzazione. Tre articoli segnano un cambio di rotta del giornale, capovolgendo una linea editoriale da sempre contraria alla liberalizzazione delle droghe, forse sarebbe sarebbe meglio dire legalizzazione, comprese quelle più leggere, il New York Times abbraccia la causa della legalizzazione della marijuana, il cui consumo è stato autorizzato nei mesi scorsi da alcuni stati, ma rimane un reato punibile col carcere a livello federale. Quello pubblicato ieri dal quotidiano non è soltanto un articolo di fondo che sancisce un cambio di rotta. Il più autorevole giornale d'America ha riunito direzione e board editoriale per discutere della questione. Fatta la scelta di sostenere la legalizzazione, ha deciso di costruirci sopra addirittura una campagna. E sempre dall'America viene una notizia curiosa. La notizia di un arresto. Dunque, la notizia è questa. Arrestato, lo leggiamo dal Quotidiano Nazionale. Abbiamo aperto con il Quotidiano Nazionale il giorno, torniamo sul Quotidiano Nazionale. Addirittura il caso. Hanno arrestato l'uomo ragno. Insulti ai turisti e botte con la polizia. New York. Finisce nei guai un giovane mascherato da Spider-Man. Soldi per una foto. Junior Bishop protestava per una mancia troppo bassa. Non lavoro per un dollaro. Ecco, la notizia curiosa la racconta Giampaolo Pioli a pagina 11 del Quotidiano Nazionale Il Giorno. Ecco, ma siccome di arresti si parla, allora volevo sentire che cosa ne pensa di questa notizia che arriva dall'America un collega, oltre che un amico, che dovremmo avere al telefono. Mauro Meazze, responsabile del Sole del Lunedì, e siccome oggi è lunedì, Mauro, ci sei? Buongiorno Daniele, ma no. Siamo sicuri che questo signore non era a Milan sotto mentite spoglie per no, caso? Esatto, tu mi hai detto che ami molto commentare notizie di giudiziaria, no? E allora Sì, non è esattamente così, però diciamo che spesso il debosciato Alessandro Milan parte con questo innesco, cioè parlando di arrestati, di indagati, di rinvia giudizio e così via. Bah, debosciato, uno che si sveglia tutte le mattine a quell'ora, io già ho sonno per farlo una settimana. Comunque, il punto è questo, sì, arresti, è l'unica notizia di giudiziaria che ho trovato, ma veniamo a cose più serie all'inizio dell'estate. Mi chiedo se, come riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, questo signore probabilmente non prendeva i voucher INPS, ma poiché mi pare di aver sentito che era un giovane, ecco, sappi che, lo scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, i voucher INPS sono molto utilizzati dai giovani, il che da una parte è una buona notizia, perlomeno non si resta, come dire, nel sommerso, per usare un elegante eufemismo. Dall'altra parte non è una buona notizia, infatti il nostro titolo dice la crisi spinge i mini lavori, cioè purtroppo la qualità della occupazione non è buona, non è buona specialmente per le giovani generazioni. Ma oggi hai visto che ci occupiamo soprattutto non dei giovani ma dei diversamente giovani, perché parliamo di pensioni, e allora c'è una classifica dove incidono di più le pensioni. Io non voglio rivelare nulla, dico solo che in vecchiaia al primo posto l'incidenza maggiore sulla popolazione residente per Ancona, per l'anzianità è a Biella, per l'invalidità è a Oristano. Oristano è la provincia che ha maggiore incidenza territoriale di invalidità. Però ti consiglierei anche la lettura poi in redazione con calma dell'articolo di Valentina Melis sul 5 per 1000, perché potresti fare delle scoperte interessanti, e così anche i lettori, cioè che ogni tanto ste firme del 5 per 1000, ma la Corte dei Conti ha chiesto sostanzialmente ai ministeri se stanno verificando un po' attentamente a chi va il denaro. Oh, naturalmente domani si comincia la guida pratica per la famiglia. È che appunto lì volevo arrivare, perché i diversamente giovani, i giovani poi si ritrovano in famiglia. E in famiglia da domani si comincia con due pagine tutti i giorni, tutta l'estate. Domani parliamo di bonus casa, ma trovate tutto il piano dell'opera naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. E poi, per non venire meno una tradizione, norme e tributi, le pagine di norme e tributi. Sappi che se ricevi una notifica di scarto per una fattura elettronica, ti è capitato? Non ti è mai capitato, mi sembra di capire. Sei perplesso. Sono perplesso. Non sei preparato, però sappi che se tu la ricevessi, allora leggi a pagina 3 dell'inserto di norme e tributi di oggi, così saprai come devi comportarti per la notifica di scarto. Scherziamo naturalmente, ma sono poi cose che effettivamente con il nostro fisco, la nostra burocrazia, a volte fanno davvero perdere il sonno. Ma non posso dire la mia parola magica di chiusura, però, Daniele, a questo punto. No, dilla pure. Io di solito dico traffico, però. Sai che lo dico sempre anch'io, infatti. No, non avevo capito che ti riferivi a quello. No, senti, Mauro, facciamo una cosa. Abbiamo aperto con una notizia bella. Siccome, appunto, tutto sommato l'estate è il momento dove ci si informa per ripartire a settembre, per la guida pratica che hai appena raccontato è anche un po' un modo per farlo, per guardare al futuro, no? Allora io tornerei all'inizio della nostra rassegna stampa e tornerei alla bella notizia di Vincenzo Nibali. Hai seguito? Certamente, come no. Bello, e anche Fernando Alonso, vorrei dire, ho seguito che giusto, la Ferrari sta tornando su, però insomma Nibali l'hanno definito lo squalo dello stretto, che è stato commentato su Twitter, mi pare proprio da Tommaso Labate, che abbiamo citato prima, collega del Corriere, il soprannome più bello. Ecco, per chiudere con Nibali, quindi con la Gazzetta dello Sport, che oggi è in giallo per festeggiare Nibali, c'è sulla Gazzetta un articolo di Felice Gimondi che, guardando al futuro, gli dice: senti, però adesso non è che ci dobbiamo fermare, intanto subito a settembre cerca di vincere il mondiale, sempre per guardare in avanti, e poi magari cerca di fare la doppietta, vediamo come si conclude. Intanto ti saluto, Mauro, come si conclude l'articolo di Felice Gimondi. Vincenzo, ti faccio ancora i complimenti e ti mando un grande abbraccio. Adesso ti restano alcune cose da fare se vorrai. Provare a vincere il mondiale, magari già a settembre, se non esageri nei festeggiamenti, e tentare l'anno prossimo la doppietta Giro Tour, una cosa che non è riuscita a me, perché ebbi un malanno sui Pirenei nel 1967 che mi frenò sul più bello, quando avevo una condizione eccezionale. Poi arrivò l'epoca di Merckx e per me cambiò tutto. Dicono che nel ciclismo moderno sia più difficile fare l'accoppiata. Non saprei, ma al tuo posto ci proverei. Poi, se ci riuscirai, allora potrai dire basta. Avrai fatto tutto quello che dovevi fare. Io nel frattempo continuerò a seguirti con affetto. E noi ci uniamo all'affetto di Felice Gimondi. Vi ringrazio. Ringrazio Carmelo Lauricella e Marta Cagnola in regia, vi do appuntamento a Milano e do la linea al GR. Grazie.